известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Imagine every single home on your street destroyed. And then think of this. In the rubble of every other home, a loved one is buried alive. Immaginate la strada, la vostra strada, dove ogni singola casa è stata distrutta. Ecco, questa è la realtà che racconta Paola Newton, inviata di CNN da Olla, per cercare di spiegare agli americani cosa si stia rappresentando in queste ore dopo il terremoto in Abruzzo. Però c'è anche un altro discorso che parla di ripartenza, di ricostruzione, ricostruzione che significa anche pianificare come, no? Per esempio costruire una nuova città, e come si chiamerà? Nuova L'Aquila, no? Ci viene da pensare, una nuova città meno a rischio, ma verrà accettata, verrà elaborata dalla popolazione, e ricostruire poi secondo quali criteri, spingendo avanti fino a che punto l'adozione di questi famosi criteri antisismici, e poi delle altre costruzioni, quelle rimaste in piedi, cosa fare? Verrebbe fuori una città a due livelli di sicurezza? È questo che è perfettamente contemporaneo dal punto di vista di una città a norma, diciamo così, e riguardo ai fondi, no, ma anche riguardo alle tecnologie, come regolarsi, insistere che ciò di cui disponiamo sul piano nazionale sia magari non solo necessario, sufficiente, ma sia addirittura l'eccellenza, e che comunque quantitativamente, oltre che qualitativamente, sia bastante per coprire l'emergenza, ne siamo certi. E l'idea di accettare soldi o sforzi internazionali però solo per confortare il nostro patrimonio artistico, quello per il quale siamo rinomati nel mondo, ma è solo sano orgoglio, oppure può essere interpretata come una forma di arroganza, perché continua a rappresentarci magari per quello che non siamo, il paese di vacanze romane, degli spaghetti, di una avventura in Vespa. Però quello che va detto è che proprio sulla base di un dibattito del genere, per l'appunto, si ricomincia a contemplare la normalità, ovvero si riparte, no? Si ragiona, si cercano i modi migliori per canalizzare energie. Energia significa vita, ciò che corrisponde a dare fino in fondo, no? Il proprio senso alla propria vita, alla propria professione, dopo una settimana eccezionale. Eccezionale nella tragedia che ha registrato, ma forse eccezionale anche per l'esame di coscienza a cui ci ha costretto, facendoci ritrovare qui a farci queste domande, ma anche probabilmente a sentirci un po' più parti di un insieme forse troppo spesso sottovalutato, perché si sa, siamo italiani anche per questo. Abbiamo in collegamento Salvatore Barba, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica, che ringrazio e saluto di essere con noi. Buon pomeriggio, Barba. Buon pomeriggio. Qualche domanda. Noi ci occupiamo di scenari internazionali, quindi cerchiamo di proiettare questa tragedia in atto su quelle che sono sia le reazioni, ma anche gli esempi, o magari gli esempi negativi, in giro per il mondo su tanti versanti, uno dei quali è quello, mi sembra, forse più delicato, una vera lastra di ghiaccio su cui camminare, che è la previsione dei terremoti. Se ne sono sentite di tutti i colori in questi giorni, compreso la storia di un'ipotesi cinese, terra dai grandi misteri anche dal punto di vista scientifico, dove a un certo punto sembravano aver trovato, no, la pietra filosofale, il modo per intuire l'arrivo di un terremoto. Lei, in qualità di geofisico, che cosa mi dice a questo riguardo? Allora, dico che apparentemente alcune volte sembra che qualcuno crede di aver capito come funzionano i terremoti in maniera da prevederli. Purtroppo quelli che si sono verificati fino adesso sono stati sempre casi singoli e le previsioni sulla stessa base non si sono mai riuscite a ripetere, per cui anche la Cina stessa, a cui lei faceva riferimento, non è stata mai più capace di riuscire a riprevedere un terremoto, tanto è vero che negli anni scorsi la Cina ha avuto molti morti. Ecco, Barbara, perché la questione è che è proprio sul piano internazionale, come dire, ognuno ha i suoi terremoti? Ognuno dei suoi terremoti, in realtà la sismologia è una scienza sul livello a scala mondiale, nel senso che ogni nazione per studiare i suoi terremoti ha bisogno delle informazioni registrate nelle altre nazioni, per cui la tecnologia sono anni e anni che ci si scambia dati, per cui sia in Europa noi abbiamo le registrazioni storiche dei terremoti italiani effettuate nelle altre nazioni europee, erano degli scambi di dati che sono sempre venuti. Adesso la strumentazione sismologica è collegata in una rete mondiale e qualunque nazione riesce ad analizzare i dati di tutte le altre. Perché? Perché noi abbiamo bisogno, no? Per studiare l'Italia, non soltanto dei terremoti italiani, ma anche dei terremoti che avvengono ai confini e dei terremoti che avvengono più lontani, perché il sistema è unico. Ecco, quello che lei sta dicendo è molto interessante, perché invece quella che sembra essere esplosa negli ultimi giorni in Italia, con la famosa polemica tra il ricercatore e gli scienziati, sembra essere invece, no, una questione, un dibattito, se non proprio una lite, fortemente a carattere nazionale, come dire, se avessimo chiesto all'estero chissà cosa ci avrebbero detto. Lei mi sta dicendo che non è così, quello che sappiamo noi è quello che sa tutto il mondo, è il massimo che si poteva sapere al riguardo, diciamo così. Allora, la sismologia si è evoluta come scienza globale, e vive di scambi tra nazioni, per cui i nostri ricercatori vanno continuamente all'estero, l'Italia ospita continuamente ricercatori stranieri, le ricerche vengono fatte in comune, alcuni ricercatori italiani parteciperanno probabilmente alla mappa di pericolosità sismica degli Stati Uniti, il Giappone quando ha bisogno di analisi di profili sismici chiede la collaborazione di esperti italiani, l'Italia stessa quando ha bisogno di strumentazione, quando la strumentazione nostra è insufficiente viene chiesta la strumentazione all'estero e viceversa, noi portiamo la nostra strumentazione e il nostro personale all'estero quando c'è un terremoto, quando c'è stato in Grecia oppure se c'è in Francia o anche in altre nazioni del Mediterraneo, sono scambi comuni, si lavora insieme e mediamente le tecniche che si usano e i metodi vengono confrontati. E quindi, quindi Barba, il know-how relativo a questo, peraltro, da quello che leggiamo, lungo evento sismico con gli sciami che vanno avanti a diversi mesi in Abruzzo, quello che si è saputo, si sa e si saprà prossimamente, perché adesso naturalmente poi in tanti fanno oppure temono di fare la notizia, la domanda più, come dire, più scottante, ovvero il peggio è passato, siamo sicuri che il peggio è passato, ma tutto ciò che si sa è sul tavolo, no? Non c'è nulla in più a cui accedere, no? Tutto quello che si sa è sul tavolo, dico purtroppo, perché chiaramente avremmo voluto sapere pure noi di più di quello che sappiamo, chiaramente, perché noi siamo ricercatori, siamo i primi interessati a sapere di più dagli studi, dalle ricerche che conduciamo. Facciamo i ricercatori perché siamo curiosi di sapere, per cui i primi a essere scontenti che tutto quello che si sa sul tavolo siamo noi. Quindi ovviamente tutto sul tavolo. Lei per concludere, che opinione si è fatta riguardo al dibattito così molto caldo, quasi etico, no, che si è sollevato nelle ultime ore riguardo al ricercatore che sostiene di poter dare dei suggerimenti e a un mondo scientifico che piuttosto compattamente dice no, aspetta, stai fermo, non crediamo, farsi allarmi, cosa pensa? Penso che ognuno vuole cercare di tirare l'acqua al suo mulino, al proprio mulino, ognuno ha la sua ricerca che fa, se non è inserito in un contesto, diciamo, più ampio, anche internazionale, crede che la sua ricerca sia centrale e sia importante e possa risolvere i problemi di tutti quanti gli altri. La ricerca scientifica viene portata avanti anche tramite confronto e validazione. Allora, se io trovo dei risultati, mi confronto con degli altri colleghi, verifico se i miei risultati sono ripetibili, chiedo l'opinione per sapere se c'è qualche errore che ho commesso. C'è un processo, quello che si chiama, tra virgolette, il peer review, cioè il giudizio o il commento degli altri colleghi. Certo. Se io tutto questo processo non lo faccio, la mia ricerca non migliorerà, perché sarò convinto di aver trovato la soluzione a tutto e sarò convinto che la mia soluzione è migliore di quella degli altri e in questo modo non miglioro. Va bene. La mia posizione è semplicemente questa, nel senso che è un processo che non definire scientifico. Grazie a Salvatore Barba, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica, quindi anche le ipotesi cinesi, come vedete, no? Addirittura ci sono stati dei tentativi o delle supposizioni legate agli umori delle galline, insomma, poi viene anche in certi casi da sorridere, o forse no, o forse gli indicatori possono essere o dovrebbero essere trattati con con meno scetticismo, però anche sul piano internazionale mi sembra di capire che le cose stiano come sappiamo, come con lo stesso bacino di informazioni alle quali riusciamo ad accedere. Invece accederemo alle vostre informazioni, ai vostri pareri, ovvero a quelli che quotidianamente depositate attraverso le mail di Express Yourself nell'ultima parte del programma. Oggi il palinsesto anche interno della trasmissione è leggermente cambiato, ma ci arriveremo intorno alle 45. Invece tra poco, dopo le consuete notizie di borsa, avremo un altro ospite. Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill, and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now she and her man, who called himself Dan, we're in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin. He said, Danny boy, this is a showdown. But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner. For all the people here hoping for a miracle, they got it. After days of being trapped under rubble, an amazing story of a 20-year-old woman pulled out alive. Storie di salvataggi formidabili, di comportamenti eroici, di vite che riemergono dalle macerie, naturalmente proprio per la predisposizione, no, per l'immaginario americano, per come si configura, per come utilizza i media, no, per avvicinare la vita vera. La televisione americana punta proprio su questioni, su episodi di questo genere. Questo che avete sentito era Miguel Marquez, l'inviato di ABC, che fin dal primo giorno è sul posto, è a Paganica, e racconta dei salvataggi avvenuti nell'area nelle ultime ore con particolare enfasi. Ci spostiamo a questo punto però con un altro amico di Jefferson, Giuliano Noci, il docente di marketing al Politecnico di Milano, che tanto spesso ascoltate qui in trasmissione. Ci spostiamo in Russia, dove Giuliano è al seguito della mega missione di imprenditori guidata da Claudio Scajola, il ministro per lo sviluppo economico, una missione della quale originariamente, se non erro, doveva far parte anche il primo ministro Silvio Berlusconi. E se mi togliete il rientro in cuffia, grazie. E che invece è dovuto restare in Italia per i noti fatti. Giuliano, sei in linea, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Per tutto è confermato anche da parte tua, Berlusconi non entrerà a far parte di questa missione che, come ci hai raccontato qualche giorno or sono, aveva un mandato esplorativo, ma insomma molto nelle corde di Berlusconi, anzi forse in quei territori nei quali il nostro premier si muove meglio, no? Sì, si muove molto bene. Purtroppo per il tragico evento dell'Abruzzo il presidente Berlusconi non è potuto intervenire. La missione in questo momento è coordinata dal ministro Scajola, che ha prima partecipato a Mosca insieme al primo ministro Putin e adesso è qui a Yekaterinburg insieme alla delegazione degli imprenditori italiani presenti qui in Federazione Russa. Allora, la questione del terremoto, vorrei sapere da parte tua come il tema degli aiuti, il tema del rapporto con l'Italia si è sviluppato in queste ultime giornate. Tu hai modo di seguire da vicino, in diretta e da un'angolazione ben diversa dalla nostra questa questione, che è fonte anche al centro anche di un dibattito interessante in Italia. C'è chi pensa che è giusto che all'alba del XXI secolo una nazione evoluta come l'Italia e con possibilità economiche vada fino in fondo con i propri mezzi e poi magari contempli eventuali supporti su progetti definiti, riflettuti e quant'altro. C'è invece chi è un fautore del tutto subito, comunque dell'ammasso di risorse e provviste. Io vorrei sapere prima di tutto qual è il tuo punto di vista sull'argomento, sulla base della tua competenza, e poi invece che cosa si sta muovendo in Russia su questo argomento. Sì, allora qui, dal mio punto di vista, io quello che credo è che sia opportuno che noi abbiamo già attivato anche il fondo catastrofi dell'Unione Europea. Stiamo come governo mettendo in piedi un insieme di risorse finanziarie che potranno servire per il piano di recupero di quest'area disastrata. Personalmente ritengo che sia importante che il paese, che è un paese del G8, mantenga, per così dire, i nervi saldi, definisca un piano. Abbiamo la possibilità e risorse finanziarie nostre a livello di Unione Europea per poter pianificare gli interventi, quindi in questo senso io direi che non sono favorevole a un assalto alla dirigenza internazionale, quindi a portare a casa tutto quello che possiamo. Dobbiamo mantenere una nostra immagine a livello internazionale, e questa immagine passa, secondo me, anche attraverso la capacità di pianificare autonomamente quello che è il sistema degli interventi necessari e poi eventualmente capire che cosa gli altri stati possono fare per supportare il piano che noi abbiamo deliberato. Questa è la mia posizione. Mi sembra di capire che quindi tu sostieni che l'accesso, per esempio, a fondi straordinari stanziati da altri paesi, da altre nazioni, non sia contemplabile subito in partenza, ma per esempio sul terreno delle competenze noi siamo certi di avere a disposizione il meglio possibile, perché se no sarebbe un gran peccato non accedere, no, al meglio possibile. È di poche ore fa la notizia che è stato educatamente, per esempio, respinta la disponibilità di una serie di squadre specialistiche tedesche, una eccellenza nel campo dei disastri di questo genere, nella ricerca di eventuali superstiti e quant'altro. Cosa ne dici? Io personalmente ritengo che il nostro sistema di protezione civile sia un sistema tra i migliori in Europa, certo, e nel mondo, e che ha dimostrato di saper lavorare anche nel recente passato. Tra il sistema di protezione civile, che è in strettissimo contatto con le unità di sismologia che operano nel nostro paese. Dal punto di vista delle competenze, vedi Stefano, in verità ricordo ai radioascoltatori che, per esempio, per quanto riguarda le opere di ingegneria civile, in questo momento in Giappone l'unico esperimento che è riuscito, di un edificio che ha 7 piani, che è riuscito a sopportare attraverso simulazioni terremoti di scala Richter molto elevata, è un esperimento italiano che ha superato sperimentazioni di altri paesi. Quindi noi, tornando al tuo quesito, noi le competenze le abbiamo. Certo. Direi che sono gli enti pubblici che devono saper utilizzare al meglio le competenze tecniche che nel nostro paese sono presenti, e in particolar modo con riferimento all'ingegneria civile. Mi sembra un'eccellente risposta. Torniamo un attimo appunto alla Russia, alla osservazione di questo paese lontano, molto legato a noi, soprattutto negli ultimi anni. Come emotivamente ha preso conoscenza della storia e quali sono le iniziative che si stanno muovendo verso l'Italia? Innanzitutto mi permetto di dire che veramente siamo stati tutti testimoni della globalizzazione, nel senso che ci, certo, siamo svegliati a Mosca lunedì mattina, certo, avendo già tutti l'informazione del tragico evento. Devo dire che gli amici russi hanno immediatamente mostrato segni di grandissima attenzione nei confronti dell'Italia, lo stesso primo ministro Vladimir Putin, che abbiamo incontrato nell'ambito di questa delegazione, si è mostrato profondamente commosso, e abbiamo ricevuto da tutti i governatori delle repubbliche, delle regioni, della Federazione Russa che abbiamo incontrato, non solo segni di attenzione, ma di disponibilità anche in pochissime ore ad intervenire nel caso in cui il governo italiano facesse richiesta esplicita di intervento. Quindi devo dire che sicuramente abbiamo nella Federazione Russa un interlocutore che ci potrà aiutare se lo riterremo opportuno in futuro, e che vede nell'Italia un partner affidabile e solido. Per concludere invece, dacci qualche ragguaglio attorno a questa missione, comunque decapitata, come dire, del nostro esponente più rappresentativo, comunque quali risultati o comunque quali strade ha aperto per un vicino futuro? Innanzitutto è la più importante missione di sistema organizzata dal governo italiano insieme a Confindustria e ABI della nostra storia. Ci sono 1032 rappresentanti di oltre 800 imprese, sono stati organizzati 6000 incontri commerciali, devo dire che e siglati importanti accordi, credo che siano passati anche attraverso gli organi di stampa italiani l'accordo di Enel, che ha rivenduto le sue quote che aveva precedentemente acquisito, un importante accordo da parte di ERG. Abbiamo inoltre siglato un altro accordo nell'industria aeronautica. Diciamo che la sensazione, si può permettere, come ha detto i lavori, è che ci siano opportunità molto significative al di là di questi accordi importanti siglati e che fanno riferimento alle tecnologie ambientali, al sistema delle energie rinnovabili, oltre che naturalmente ai tradizionali settori del Made in Italy. Ecco Giuliano, per concludere, se dovessi proprio isolare un episodio, un fatto, un accordo, un partner che ti sembra in un certo senso la sorpresa, comunque il dato interessante, nuovo, forse anche elettrizzante per l'impresa italiana in coincidenza con questa spedizione, che cosa ti viene in mente? Io quello che posso dire, posso portare due esempi che ho proprio vissuto oggi pomeriggio e che mi hanno colpito molto favorevolmente. Io mi trovo a Yekaterinburg, come dicevo, che negli Urali, dove il 25% del prodotto interno lordo russo è qui e ci sono larga parte delle riserve minerarie e petrolifere della federazione. Le due cose che mi hanno colpito sono, una, in primo luogo la volontà di portare le nostre tecnologie, i nostri modelli di gestione per le municipalità, per i comuni di quest'area, per la gestione dei rifiuti. Quindi ci hanno chiesto di portare in larga parte dei comuni importanti di quest'area tecnologie per lo smaltimento rifiuti e per la termovalorizzazione dei rifiuti. La seconda cosa che mi ha colpito fa riferimento alla Siberia, c'erano degli interlocutori di insediamenti di estrazione petrolifera in Siberia e ci hanno chiesto di portare, noi lo abbiamo verificato oggi, tecnologie per l'utilizzo dei gas collaterali che si formano nell'estrazione del petrolio, che possono essere utilizzati anche in questo caso per la produzione di energia. Quindi queste sono operazioni che, se andranno avanti, di grandissimo interesse da un punto di vista tecnologico, ma anche da un punto di vista di business per il sistema delle nostre imprese. Auspichiamo veramente che ci sia questo tipo di possibilità e si possa andare avanti. Nei russi la motivazione è forte. Va bene, molte grazie per questo panorama offertoci da Giuliano Noci. Nel frattempo scorrono sulla televisione irresistibili immagini di Silvio Berlusconi che con l'attenzione con cui, la presenza con cui sta seguendo il dramma del sisma in Abruzzo, adesso però indossa un casco da pompieri e mi sembra non levarselo, nel senso sono parecchie le inquadrature che lo immortalano con questo casco rosso. Il Premier in questi giorni sta dando, devo dire, il meglio di sé, oltre che dal punto di vista seriamente operativo, anche dal punto di vista poi della interpretazione di un ruolo, e questo gliene va dato atto. Ci sono tanti pompieri con caschi più piccoli, il suo è un casco enorme. You made city. You broke the rules, you laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Sexy city, oh, you broke the rules on sunny day. The world was waiting for the lover. Abbiamo ora rapidamente da consumare, perché il tempo è poco, un collegamento con Maria Grazia Enardi, una ricercatrice di storia internazionale a Firenze, all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno, l'ascoltate spesso durante la nostra trasmissione per parlare di Israele. Questa volta ci parla in connessione anche della storia di un giovane studente israeliano che è rimasto coinvolto dal sisma e di cui addirittura in Israele, come capita certe volte per gli strani intrecci delle notizie, hanno avuto notizie purtroppo non buone prima ancora che dalle nostre agenzie. Maria Grazia, buon pomeriggio. Buonasera. Quindi sono pessime le notizie ricevute, vero, al riguardo? Per quanto riguarda questo ragazzo, sì, poco fa la stampa israeliana annunciava che era stato trovato il suo corpo. È un ragazzo della Galilea che credo studiasse medicina ed è uno dei tanti studenti israeliani, secondo la stampa israeliana erano addirittura 40, certo. E di cui 30 arabi israeliani, e lui dovrebbe essere davvero l'unica vittima, perché gli altri sono stati trovati e molti sono già tornati a casa in Israele. Ecco, come abbiamo già fatto poco fa con un altro nostro amico e collaboratore dalla Russia, vorremmo sapere da Israele, per quello che tu sai, come è stata recepita la notizia del sisma, anche perché terremoto in Israele è una parola, vero, con un suono ben noto, ben assai discusso, come dire. Un suono sinistro, e questo spiega il grande interesse sui giornali israeliani per quello che è successo all'Aquila. Il terremoto è forse il nemico più nascosto, invisibile e mortale di Israele. È una zona fortemente sismica lungo la valle del Giordano e la Wadi Arava. Tradizionalmente ci sono grandi terremoti ogni 80 anni e l'ultimo è stato nel 1927. Ci sono previsioni a livello governativo quasi apocalittiche, si prevede il prossimo terremoto in Galilea e i numeri sempre di questo rapporto governativo sono terribili, parecchie, parecchie migliaia di morti e addirittura 400.000 senza casa in un paese che ha 7 milioni di abitanti, come se da noi in Italia, certo, ci fossero, certo, 20 milioni di persone senza casa. Certo. Quindi questo spiega anche la ragione per cui il governo ha offerto a Berlusconi, Netanyahu ha offerto a Berlusconi di mandare una squadra di specialisti, non solo per aiuto ma anche per vedere da vicino cosa si può fare in una situazione così drammatica. Certo, andare a scuola di terremoto. Grazie a Maria Grazia Enardi per questi aggiornamenti e anche per questi risvolti particolari dello Stato di Israele. Alla fine siamo arrivati, questi siete voi che ci aiutate quotidianamente a fare il programma. Questo è lo spazio che si chiama Express Yourself. Vi abbiamo mandato una mail stamattina dicendo che i media ci osservano, no? In coincidenza con i media internazionali, con la tragedia dell'Abruzzo, sottolineano le responsabilità legate alle modalità costruttive, l'assenza di controlli. Pensate, vi abbiamo chiesto, che questa volta le cose cambieranno, avete la sensazione di una svolta, secondo voi sono finiti i tempi delle ruberie, delle incurie, no? Degli appalti, l'Italia sta trovando una decenza in questo momento di massima difficoltà, e soprattutto anche apprezzate l'idea di Berlusconi di utilizzare finanziamenti americani, come ha detto ieri, solo per il recupero delle opere d'arte e dei monumenti in un secondo tempo. Allora, Allora c'è Francesco che non ha dubbi, fa bene Berlusconi ad accettare gli aiuti per le opere d'arte perché sono un bene di tutti. Lucio invece pensa ad altro, collega la vicenda italiana con il resto del mondo e ricorda che per un sisma di questa intensità in California o in Giappone, esempi tirati in ballo a piè sospinto in questi giorni, non sarebbe crollata neppure una casa. Stefano dice anche i monumenti e le chiese verranno ricostruite e se ciò verrà fatto con fondi americani significherà che ci saranno più fondi italiani per costruire le case della povera gente. Speriamo che il sillogismo arrivi a buon fine. Vediamo Flavio. Flavio ci scrive: pochi giorni fa il piano casa del governo dava la misura di come si avesse il polso della situazione. Ora c'è il rischio che qualcuno si precipiti a fare qualcosa solo per annunciarlo in TV. Umberto: se un paese si ricompatta nel sangue, un paese incerto e diviso tra mille rivoli di interessi, con troppi furbetti da casolare e molti poveri fessi senza amici al piano superiore, rischia strappi di incerta direzione. Non la vede bene Umberto. La coperta è corta, dice. I soldi mancano, ovvio darli al disastro, ma chi non li avrà più e che magari perderà il lavoro causa poco sostegno statale, come si sentirà? Che vuol dire? Bella, bella domanda. Mi meditavo su questo messaggio molto, molto ficcante. Oggi sono uscite le prime stime di come si sta fermando il lavoro in Abruzzo, si parla già di un 3 punti percentuali, 3% di perdita nel PIL regionale. Piove sul bagnato di una stagione durissima. Esatto. E ancora vi leggo quello che ci ha scritto Luca, dice: in Italia funziona sempre così, onda emotiva, quindi appelli a grandi cambiamenti, però il lupo perde il pelo ma non il vizio. Berlusconi invece fa benissimo ad accettare tutti i soldi che ci mandano, ne abbiamo bisogno. Non la vede bene. E anche un altro Roberto non la vede assolutamente bene, dice: non ci sono elementi che possono portare ad un ottimismo, alla superficialità riguardo ai problemi della sicurezza, si manifesta in tutti i campi, non solo nelle costruzioni ma specialmente per la sicurezza stradale e sui luoghi di lavoro. E poi c'è una amarissima domanda retorica che rivolge Simone, che scrive: ma se uno vive in una zona sismica c'è bisogno di controlli perché costruisca in maniera da ridurre il rischio di crolli? Il pericolo a cui si espone non è abbastanza? Cioè perché ci si pensa dopo. E a quanto pare non ci si pensa, perché insomma le vicende di questi giorni. E qui però parte poi la polemica dell'Italia paese antico, dei centri città, di questa ipotesi di una seconda. Poi però crolla l'ospedale del 2000, certo, quindi è tutt'altro discorso. E chiude il discorso come un coperchio, no, di alluminio arrugginito. Andrea: come al solito ci saranno decreti, leggi severissime, convertiti in leggi più permissive, interpretate da circolari e sentenze di giudice più permissive ancora, e poi qualche tangentina fino al prossimo anche terremoto. Anche questa è una pietra tombale al discorso. Mi sembra le pietre tombali si sprechino. È macabro dirlo, ma insomma. Fabrizio scrive: gli arabi hanno il petrolio, i brasiliani hanno le spiagge, le belle donne, noi italiani abbiamo l'arte. Direi che l'idea di ripristinare una risorsa così importante non sia del tutto sbagliata guardando al futuro. Invece c'è Michele che ha un preciso colpevole, trova un indiziato numero uno, e sono i comuni, perché dice: partiamo dall'assunto che sono i comuni che fanno il piano regolatore, altrimenti perché esisterebbero le amministrazioni locali, si chiede Michele. Quindi poi i governi centrali delineano normative guida e unitamente, ma meno rispetto alle regioni, danno le risorse mancanti ai comuni stessi. Sono quindi i comuni che devono conoscere le specifiche geologiche del proprio territorio e quindi in qualche modo, sembra concludere il suo ragionamento Michele, devono assumersi le responsabilità di disastri come quello che stiamo seguendo in queste ore. Sono due massimi, dunque un massimo dice: passato un mese sarà di nuovo la stessa storia. Questo è, direi, questo fatalismo che mi sembra pervadere i nostri ascoltatori. È molto più costosa la ricostruzione, in questo si vede l'imprenditore che programma il futuro e non pensa solo all'immediato. E da uno di sinistra come me, scrive Massimo, un plauso a Berlusconi. Poi c'è un altro Massimo che invece scrive: da noi la glasnost deve ancora arrivare e ho paura che ne passerà ancora di tempo prima che arrivi, così come i controlli vendibili e addomesticabili per 2 lire. Tutto il messaggio il vizio italiano. Io ne ho uno semi-ottimista. Tutti, c'è Andrea che dice: le cose cambieranno in proporzione a come cambierà il modo di pensare degli italiani. Meno furbizia e più coscienza civile, un po' quello che per esempio diceva ieri Bersani a Ballarò, insomma, in un concitato dibattito che ha avuto anche dei momenti pessimi visto il clima. A me viene a pensare proprio la tua domanda sia sia un po' il senso di questo amaro, no? Amara raccolta di pareri su Facebook, un parere ottimista, un punto di vista positivo, una idea dell'Italia non così sconsolata, proprio non arriva? Sono anche giorni difficili, sono giorni difficili essere ottimisti in tutto, insomma. Stefano Pistolini, redazione Milano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano, jefferson2@radio24.it, la mail, le nostre pagine Facebook, redazione Jefferson 2 e Jefferson 2 Radio 24, Express Yourself, la prima per parlare con noi, la seconda per dibattere. Tutto questo è Jefferson 2, l'arte della svolta, che potete ascoltare in replica a mezzanotte in podcast sul sito della radio. Tra poco sarà disponibile la diretta, come sempre attorno alle 4 qui su Radio 24, dove vi aspettiamo. I programmi, le cronache naturalmente continuano. 我回家去，打坐取舍，生养性，沉默的人最聪明，不做无聊。